sul terzo punto dell'ordine del giorno l'annosa questione della potatura del pero dell'appalto in gestione alla nuova impresa di pulizie. Tutti dall'alto in basso con un odio speciale per i morosi dell'interno 3 e 4 ha qualcosa da dire riguardo ai notturni schiamazzi di cui tratteremo più avanti in varie ed eventuali. Ma chi è questa gente che il destino ha voluto incontrarsi in seconda convocazione nello stesso luogo alle 19 in punto del giorno? Non sappiamo più niente ci vive accanto, sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Parlava in generale ma guardava me. Dice di sentire spesso degli strani rumori provenire dal soffitto. Dobbiamo piantarla di passeggiare coi tacchi in casa, di fumare nelle aree in comune, buttare le cicche per terra. Ma chi è questa gente che il destino ha voluto incontrarsi in seconda convocazione nello stesso luogo alle 19 in punto del giorno? Non sappiamo più niente accanto, sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Non ci importa più niente di chi ci muore accanto, forse dovremmo parlarci in varie ed eventi.